Salve a tutti, sono Stefania e sono qui in compagnia degli amici di Radio Big World, che in questa occasione voglio proprio ringraziare perché mi danno l'opportunità di esprimere alcuni miei pensieri e di condividerli con voi. Il popolo di Barabba, ormai tutti sapete che cosa intendo per popolo di Barabba. Oggi volevo parlare con voi della scuola di educazione di politica che stiamo portando avanti con alcuni collaboratori e amici qui nel Val d'Arno. Perché questa scuola? Perché il popolo di Barabba sia sempre meno affollato, ci sia sempre più un popolo consapevole, cosciente, intelligente, che possa avere la capacità di scegliere. Il primo anno, quello che stiamo affrontando in questo momento, è un anno zero, un anno in cui vengono proposti degli incontri mensili dove ragioniamo su alcune parole chiave inerenti, chiaro, alla politica. È indirizzato ai giovani studenti, in questo caso del liceo, ma anche universitari e poi a chiunque voglia partecipare, chiaramente. Agli studenti perché? Perché agli studenti e ai giovani in genere, perché? Perché si spera, almeno questo è l'obiettivo, di formare un gruppo di persone capaci poi di svolgere la funzione del politico. Un obiettivo impegnativo, sicuramente utopico, però è quello che ci prefissiamo. Per il momento abbiamo fatto due incontri. Un incontro è stato fatto dal professor Givone, abbiamo parlato di libertà. Il secondo incontro di economia, il terzo incontro lo faremo venerdì 23 febbraio e affronteremo il tema della responsabilità. Il primo incontro, quello sulla libertà, vi volevo raccontare un aneddoto che mi è rimasto particolarmente impresso. Perché? Perché il tema della libertà, ognuno di noi si crede libero di esprimere la propria idea, si crede libero di fare quello che gli piace. Io insomma ho diversi dubbi su questo. Il professor Givone ci ha fatto una lezione davvero di un grande spessore, una lezione universitaria. Alcuni concetti erano veramente complessi e difficili da seguire, però una cosa mi è rimasta particolarmente impressa quando lui ci fece l'esempio della famiglia dei Bischeri di Firenze. Una famiglia, voi sapete che poi il bischero è quell'aggettivo che viene dato da noi toscani a quelle persone un po' così, un po' superficiali, un po' bischere per l'appunto. E lui diceva, guardate, la famiglia dei Bischeri all'epoca, che avevano, era una famiglia nobile di Firenze, non nobile, erano aristocratici, erano benestanti, una famiglia di commercianti, anzi, erano benestanti, e avevano la loro casa, una delle loro case, in Piazza Duomo. Gli venne detto di abbattere, di andare via da quella casa perché volevano costruirci per l'appunto il Duomo. E loro rifiutarono le cifre che gli vennero proposte e poi in fondo sapete com'è andata a finire, il Duomo lo hanno fatto, quindi la famiglia dei Bischeri venne praticamente sfrattata, la casa venne distrutta e a loro credo che non venne dato assolutamente niente, quindi ecco perché Bischeri. Però loro non è che non avevano detto no perché volevano di più, avevano detto no perché volevano rimanere nella loro casa, si erano opposti al potere politico del loro tempo, tant'è che la famiglia dei Bischeri fu una delle poche famiglie che dopo una grande depressione economica che di lì a poco si abbatté nella città, fu una delle poche famiglie che riuscì a salvarsi grazie alla loro intuizione e alla loro intelligenza. Quindi mi viene da dire, se oggi mi danno della bischera, direi sono onorata che qualcuno mi dica così. perché insomma i bischeri hanno portato in fondo la loro opinione. E poi mi è venuto in mente anche un altro aneddoto dei nostri tempi. Qui in Valdarno probabilmente ognuno di voi lo ha conosciuto, si chiamava Ringo. Era un personaggio davvero tanto fuori dalla nostra, dai nostri concetti, dai nostri preconcetti e dai nostri stili di vita. Ringo era uno che viveva nella sua bicicletta, viveva dove capitava, viveva di espedienti, e una volta ebbi il piacere di parlare con lui perché ero incuriosita da questa persona che non mi sembrava un grullo, ecco, per dirla alla toscana. Mi colpì una frase e io ho scelto di fare questa vita perché io voglio essere un uomo libero. Credo che davvero nel nostro tempo Ringo sia stato davvero un uomo libero. Lui mi diceva che riusciva a non avere niente, ma non aveva niente neanche da dare, cioè lui non aveva vincoli con, lui diceva, i padroni. E beh, insomma, poi ognuno ha le proprie scelte, ha le proprie teorie, però credo che Ringo è vissuto da uomo libero, secondo il suo concetto. Il secondo tema che abbiamo affrontato è il tema dell'economia. È stata una lezione molto complessa anche questa, perché sono professori universitari abituati a parlare ad un pubblico ormai già addomesticato e ormai già con la mente aperta e ricettiva a certi temi e ad un linguaggio abbastanza complesso. Quello che ho capito dal professor Petretto è che siamo inseriti in un contesto globale dove l'economia ha le sue regole e dalle quali non si può prescindere. Io oggettivamente non sono tanto convinta di questo, che non si possa prescindere da queste regole. È vero, ci sono delle posizioni sicuramente da rispettare, però non credo che si debba arrivare alla mercificazione di tutto e soprattutto alla mercificazione umana, perché io credo che stia accadendo questo. Io credo che ci siano degli interessi da parte di pochi, di coloro che hanno in mano il monopolio del commercio, che vogliono che il lavoro sia sempre pagato meno. Ecco, non so come spiegarmi. Anche il fatto degli immigrati. Gli immigrati fanno comodo a molti. Gli immigrati sono quelli che abbassano il costo del lavoro. La globalizzazione ci impone delle regole che non sono uguali per tutti. E questo mi dà veramente da pensare. Mio figlio, che lavora in un'azienda agricola, mi dice spesso: siamo, diciamo, trattati, lui nello specifico, per fortuna ha un titolare onesto che ha una certa sua morale e una certa etica del lavoro, ma ne ha girate tante di aziende agricole nel Valdarno fino a che ha trovato questa che è impeccabile da un punto di vista del lavoro, ma le altre era tutto uno sfruttare e un offrire il lavoro al ribasso, quindi prendevano persone del Bangladesh, prendevano persone e ricattandole, perché con poco chiaramente loro si adeguavano a quello che veniva richiesto. E queste cose io credo che un politico ne debba tener conto. Capisco che non si può, bisogna avere una visione completa, io credo, del contesto sociale in cui viviamo e prendere di conseguenza le decisioni, però non si può non tener conto di queste cose. La prossima lezione, il prossimo incontro, insomma, verrà fatto dal dottor Barrilà. Il dottor Barrilà è un amico del Valdarno, perché ormai è venuto già altre volte, una persona davvero squisita, di un'umanità incredibile, e lui affronterà il tema della responsabilità, un tema grosso, enorme, per ognuno di noi, cittadini italiani, i cittadini europei, i cittadini mondiali. La responsabilità è un aspetto della nostra vita che dovrebbe assolutamente coinvolgere tutti, con la consapevolezza di essere responsabili di qualunque cosa facciamo, perché ad ogni azione corrisponde una reazione. E purtroppo non so quanto sia capito questo concetto e quanto ne teniamo conto nelle nostre azioni quotidiane, non so quanto, non sono in grado di stabilirlo, però da come stanno andando le cose, cioè credo che la responsabilità sia un aspetto davvero molto secondario per il popolo di Barabba, appunto, scusatemi, ma io riaffronto sempre questo tema, non per puntare il dito e giudicare, però effettivamente, cari amici, guardiamoci un po' intorno e guardiamo che cosa abbiamo: tante eccellenze, ma anche tanti popoli di Barabba. E sono quelli che fanno più male, perché c'è qualcuno dice fa più rumore un sassolino quando cade che una montagna quando cresce, fa più rumore un albero quando cade che una montagna quando... è vero, perché ci sono tante montagne che crescono, ma quei sassolini che cascano fanno un rumore terribile e possono distruggere la montagna, la possono distruggere, io sono di questa opinione. De André, un grande cantautore che sicuramente tutti voi conoscete, ultimamente su Rai 1 c'è stato quel magnifico sceneggiato che ha raccontato la sua vita. Lui, prima di scrivere le sue canzoni, durante la scrittura delle sue canzoni, pensava sempre, ha raccontato, alle parole che usava, perché la sua responsabilità di comunicatore era enorme. E una parola piuttosto che un'altra poteva fare la differenza. Ecco, e con De André io dico che concludo qui, potremmo parlare all'infinito di questo tema che mi sta particolarmente a cuore, però insomma credo che sia sufficiente. Vi ringrazio e alla prossima.